Ecco, buonasera a tutti, benvenuti in questa serata a nome della CP e della Fondazione Pellegrini Canevascini che organizzano appunto questa sera la presentazione del libro che poi di cui dirò in seguito. Recentemente, qualche mese fa, ci eravamo trovati in questa sala per presentare il libro Altre Culture, dove appunto un capitolo è dedicato all'ACP e quindi abbiamo incontrato Dino Erba e abbiamo così deciso di presentare il libro su un personaggio che è conosciuto a Balerna, da una certa cerchia di Balerna e che è legato anche alla nostra associazione, la CP, Virgilio Verdaro, e quindi abbiamo pensato appunto di presentarlo questa sera in questa sala. Abbiamo coinvolto Pasquale Genasci, storico, che anche già poi lo dirai tu, nel 88. 88 aveva scritto un libro che era stato presentato anche quello qui a Balerna, e quindi abbiamo chiesto a lui di fare un po' da trait d'union tra quella pubblicazione e quella che presentiamo questa sera, e quindi di inserire il libro nel contesto storico e di appunto intervistare, tra virgolette, Dino Erba. Quindi ti cedo la parola, Pasquale. Buona serata. Grazie Rezio. Allora comincio a introdurre questo parallelo fra i due testi che sono apparsi dopo tanti anni di distanza, ma che comunque diciamo sono un po' uno la continuazione, direi, e la completazione dell'altro. Ecco, io mi ricordo innanzitutto il convegno che avevamo, che era stato organizzato nell'85 sulla figura appunto di Virgilio Verdaro, per il centenario quindi della nascita, e poi avevamo raccolto queste presentazioni che avevamo fatto io e Bruno Stoppa in questo volumetto, poi arricchito da alcuni annessi e da alcune appendici. Ecco, comunque il vero artefice di quel doppio evento è stato Rolando Scherer, che appunto ci chiamò per quelle poche competenze che avevamo allora su Virgilio Verdaro. Bruno Stoppa era sindacalista, era socialista e poi comunista, un attento conoscitore del comunismo internazionale, mentre io lavoravo sul movimento operaio ticinese e svizzero e avevo incontrato questa figura di Virgilio Verdaro che all'interno di questo Partito Socialista mi sembrava comunque assai singolare, no? E non avevo quindi questa conoscenza della sua vita precedente. Lo ricordavamo prima con Rolando Scherer, quei momenti furono anche un momento di gruppo, no? In cui ci incontravamo e si discuteva, c'era anche Gianni già allora e adesso ci ricordava ancora alcune di quelle discussioni che facevamo, che riportavano così alla memoria, no? Un Ma non c'è personaggio. più una cosa tra Sì? quella cosa lì, la partita da Danilo Gogliani, no? Che lo voglio, con l'ufficio puntale con me. Però sai, Danilo Gogliani con la testa mille cose e non si decideva mai. Sì. Da un momento Fico mi dice, tu conosci qualcuno di guarda serve, è capace di scrivere, capisci, è un storico più o meno, e un vecchio signore, e lui è stato subito d'accordo, no? E dopo appunto abbiamo pensato te, cose lì, cose, e abbiamo fatto lo stesso lavoro. Esatto, e quindi erano momenti anche di Erano incontro, sì. anche conviviali, eccetera. È stato un bellissimo momento che ricordavamo anche con Abbiamo fatto 3 o 4 piacere, mesi, eh. proprio sì, esatto, anche con. E E quindi ecco, hai citato Adolfito Fontana, che anche lui era dunque membro di questo gruppo, e li ricordo volentieri sia lui che Bruno Stoppa, che nel frattempo appunto non sono più tra di noi. Ecco, allora quel testo che appunto pubblicammo allora aveva qualche pregio, ma aveva anche dei difetti, indubbiamente, perché mancava di alcune parti anche piuttosto importanti. Ecco, riguardando il titolo, comunque, trovo che il titolo è ancora azzeccato oggi e in fondo col suo libro Dino Erba conferma un po' quegli elementi, no, che avevamo messo in evidenza, Virgilio Verdalo 1885-1960, il comunista eretico, no? Quindi avevamo messo in evidenza, no, questo fatto, dunque un comunista che è molto particolare, subito, poi ne parleremo subito dalla fondazione del Partito Comunista Italiano, ma lo sarà poi per tutta la vita. Socialista controcorrente quando arriva in Ticino, perché c'è solo un partito, no? Lui arriva nel 40 e nel 40 ricordo il partito, intanto vabbè, lui non era un comunista staliniano, quindi ovviamente anche se ci fosse stato un partito comunista non avrebbe potuto iscriversi, perché ovviamente lui era lontano da queste posizioni, ma in Ticino c'era solo questo, perché il Partito Comunista Svizzero era stato messo fuori legge nel 1940, risorgerà poi solo nel 1944, ma sotto altri nomi, proprio perché comunque il divieto esisteva ancora. Quindi poi lo conosceremo come Partito del Lavoro in generale, che prenderà poi nomi diversi a seconda delle sezioni locali. In Ticino si chiamava Partito Operaio e Contadino Ticinese all'inizio. Ecco, quindi il socialista controcorrente, lui fondamentalmente è rimasto comunista come visione ideologica, e quindi chiaramente in un partito socialista non poteva che essere controcorrente, lo era abbastanza sistematicamente. Mi ricordo, avevamo anche scritto che poi l'estensore di una cronaca diceva il sempre dissenziente compagno Verdaro è intervenuto e ha detto questo, perché evidentemente aveva delle posizioni molto critiche. Il militante internazionalista, ecco qui su questa militanza, veramente, no? Quindi questo respiro internazionalista, non solo diciamo per la sua visione, ma anche per i temi che trattava, eccetera, trattava sempre i problemi del mondo, no? E quindi poi inseriva i problemi locali, eccetera, nazionali, sempre in una visione ad ampio respiro, no? E quindi era un militante, ecco, forse più militante. Non tanto nel lavoro politico, quanto nel lavoro teorico, di scrittore, di persona che faceva quindi comizi abbastanza regolarmente, eccetera. E poi il Balernitano, evidentemente, volevamo segnare anche questa sua origine, comunque ticinese, no? Quindi sono questi elementi che, ripeto, poi Dino approfondisce e conferma, diciamo, anche se, ripeto, certe parti ha dovuto completarle, perché effettivamente l'aspetto del militante internazionalista era un po' carente, diciamo così, per usare un eufemismo. Ma mi piace anche molto il titolo che ha usato Dino. Intanto il gatto mammone, no? L'uso quindi degli pseudonimi, questi militanti, no? Che lavoravano spesso nella clandestinità o nella semiclandestinità, dovevano ovviamente sapersi muovere e celarsi, e quindi ecco, era anche, diciamo, un. Era anche un modo. Lui firmava così tanti dei suoi articoli. E poi ecco questo, questo titolo, Virgilio Verdaro, tra le guerre e le rivoluzioni del XX secolo. Mi piacevano anche questi termini al plurale, perché da un lato tra le guerre, e non c'è solo, non ci sono solo le guerre mondiali, ma c'è la guerra d'Etiopia, c'è la guerra di Spagna, c'è la guerra anche cino-giapponese, no? Che a un certo punto lui è interessato, approfondisce, eccetera. Quindi ecco l'idea quindi di queste guerre che attraversano in particolare questa prima metà del secolo, le rivoluzioni ancora una volta al plurale, quindi non solo la rivoluzione sovietica, ma la rivoluzione, le altre rivoluzioni, quella tedesca, quelle tedesche, perché in realtà sono diversi tentativi dopo il 18 di rovesciare il potere in Germania da parte delle forze radicali. E questi due termini, guerra e rivoluzione, li troviamo poi abbinati nella guerra civile spagnola, no? Quindi questi due termini sono, perché da un lato è una guerra civile, ma dall'altro è anche una rivoluzione. Pensiamo appunto a tutto quello che è stato fatto da parte del movimento anarchico. Ecco, Dino segue, diciamo, nel suo libro, cioè segue il percorso, no, la vicenda personale e politica di Verdaro in modo cronologico, no? Allora io ho così, come dire, scelto dei temi, no, da affrontare di volta in volta. Io quindi ti porrò alcune domande per sviluppare un pochettino queste tematiche. Ecco, questi militanti, no, le vicende private e pubbliche si intersecano, ma in realtà è sempre stato difficile, no, trovare gli aspetti della vita privata, perché questi, allora si diceva, erano dei rivoluzionari di professione, no, e quindi tutto, diciamo, la politica, la militanza, l'impegno veniva prima di tutto, no? E sempre. E quindi anche le vite private, lo vedremo poi con Emilia Mariottini, sono anche delle vicende molto, molto drammatiche, molto, e molto tristi. Ecco, forse, diciamo, l'unica parte normale è proprio l'inizio, no? Quando parliamo di Verdaro, ecco, se pensiamo alla sua infanzia, alla sua adolescenza, è un'infanzia, un'adolescenza molto normale, direi addirittura, no? C'è una famiglia colta alle spalle, c'è istruita, ecco, quindi parlaci un po' di questa prima fase della vita. Beh, prima cosa vi ringrazio, mi scuso, ho un raffreddore terribile, per cui la mia voce non è molto felice. Seconda cosa, ringrazio Pasquale, Stoppa e Rolando per questo libro che mi ha consentito di affrontare la vita di Virgilio Verdaro in modo più ampio. La vita di Virgilio Verdaro io l'ho affrontata in un tentativo, in una ricerca di mettere a fuoco alcuni nodi di quel periodo, la rivoluzione russa, i movimenti rivoluzionari sovversivi che sorgono, e facendo questa ricerca mi sono imbattuto in alcune figure di cui mi sono soffermato per cercare di vedere come le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. Rispondendo alla tua domanda, sì, la vita di Virgilio Verdaro in gioventù è quella di tanti giovani socialisti intellettuali di quel periodo, di un livello direi anche superiore, perché lui è professore di liceo. Una costante che gli scritti che io ho recuperato, che ho potuto consultare di Virgilio Verdaro sono, come si suol dire, la punta di un iceberg. Gran parte degli scritti di Virgilio Verdaro sono scomparsi, a partire dalla sua tesi di laurea, che è stata rovinata dall'alluvione dell'Arno del 1966, compresa quella del padre, due tesi del padre, figura di grande cultura latinista, autore di alcuni libri. In questo periodo siamo nel 1910-1915, Verdaro, un giovane socialista promettente. Il suo nome si lega ad alcune figure importanti del periodo, a Salvemini. Con Salvemini a Firenze firmano alcune dichiarazioni, alcune mozioni. La guerra è uno spartiacque. È uno spartiacque perché Virgilio Verdaro si schiera decisamente contro la guerra e subito viene colpito dalla repressione dello Stato italiano, che gli fa conoscere periodi di galera, periodi di confino. Finita la guerra, Verdaro tra l'altro avrebbe potuto vivere in Svizzera in quel periodo, perché se non sbaglio insegnava in qualche scuola svizzera. Invece torna in Italia, si butta nella lotta contro la guerra e sconta questi inconvenienti. Finita la guerra è uno delle figure principali a Firenze e in Toscana della frazione di sinistra che si muove per la fondazione di un partito comunista. Sappiamo che Verdaro, per la sua attività comunista, viene licenziato dalla scuola, dal liceo dove insegnava. Di tutta questa attività io ho cercato, ho fatto delle ricerche, ci sono pochissime tracce, libri fatti dalle varie organizzazioni vicine al Partito Comunista Italiano negli anni 60, 70 e 80 non ne parlano, se non in qualche piccola nota. E qui è qui che comincia la nuova vita di Verdaro. Ecco, magari si lega sentimentalmente a Emilia Mariottini, più giovane di lui. In precedenza aveva una relazione di cui io vengo a saperlo adesso, perché non ero riuscito a trovare notizie fondate. Ha un matrimonio svizzero, quindi studi, matrimonio tutto normale. La guerra, la rivoluzione russa, la fondazione del Partito Comunista d'Italia buttano Verdaro in un'avventura che inizia nel 1921 e lo accompagna per tutta la vita. Che non è una vita normale quella. È comunque, diciamo, un militante che è abbastanza giovane, si iscrive al PSI, quindi ha solo 16 anni, no, quando si iscrive. E poi c'è un particolare curioso, no, che è il famoso congresso di Basilea del 1912, no? Lui è rappresentante per la Repubblica di San Marino, è un congresso internazionale contro la guerra, ci sono i grandi tenori del socialismo europeo e Verdaro partecipa. Questo momento è ricordato anche da Louis Aragon, Le Cloche de Bâle, che nella sua parte finale racconta come il vescovo, no, abbia concesso poi la cattedrale a questi militanti, perché erano talmente tanti. È l'epilogo, no, di questo libro, intitolato Clara, che si riferisce a Clara Zetkin, quindi a una delle grandi figure del comunismo tedesco. Ecco, questo è un momento particolare, insomma, all'interno, ed è lì che poi si ferma in Svizzera, dunque. E lì incomincia a frequentare, appunto, ad entrare in contatto con figure, appunto, di primo piano. Quindi quando lui entra nel Partito Comunista d'Italia nel 1921, è già una figura di un certo livello, cioè un'età che è superiore alla media, perché gli aderenti al Partito Comunista d'Italia erano, la maggior parte erano giovani nati tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, avevano poco più o poco meno di 20 anni. lui che ne ha 35 è un vecchio. Ecco, dice, sì, in questo dopoguerra, ecco, c'è una figura importante, no, all'interno del Partito Socialista Italiano, che è Amadeo Bordiga, sì, no? Sì, sì. E appunto Verdaro diventa portavoce di Bordiga in Toscana, ma anche in occasioni di congressi, al congresso socialista del 1919, infatti riporto l'intervento di Verdaro che è molto importante, perché ci furono due interventi importanti, furono quello di Verdaro e quello di Bordiga, che premevano per la rottura con la Seconda Internazionale, con l'espulsione dei riformisti e con l'adesione alla Terza Internazionale. La frazione comunista, astensionista. Anzi, quando Bordiga rinuncia all'astensionismo, Verdaro fa parte di quel piccolo gruppo che invece che sostiene ancora l'astensionismo e poi rinunciano per confluire nella frazione comunista, assolutamente minoritario. Ecco, è interessante questo intervento, magari cito un paio di passaggi perché mi sembra... E lui si confronta con i... Chiarisce bene, no, qual è la posizione. Con i grossi calibri del Partito Socialista, certo. Da Lazzari, Serratti. Certo, no, dice... Dunque, lo sciopero generale è la politica del proletariato sino al giorno dell'azione armata. Quindi lo sciopero che deve poi sfociare nell'azione armata. E poco più in là dice, la divisione netta tra la seconda e la terza internazionale è questa. C'è una corrente che ammette che l'azione socialista possa esplicarsi nell'ambiente borghese e che ha come massima idealità uno Stato democratico dove il suffragio universale di ambo i sessi, diritto di iniziativa, diritto di referendum, possa essere il mezzo per effettuare la trasformazione economico-sociale. Questa è la posizione, secondo lui, della Seconda Internazionale, e invece lui dice noi della frazione astensionista dichiariamo ai congressisti qui convenuti che non ammettiamo che due direttive, quella della Seconda Internazionale e quella della terza. L'azione parlamentare con tutte le sue conseguenze, con tutti i suoi danni, o l'azione astensionista, o di qua o di là, in mezzo c'è l'equivoco. Ecco, questa comunque, questa posizione al congresso di Bologna che precede le elezioni, sì, sì, politiche minoritaria all'interno, del partito. Ecco. E poi arriviamo quindi alla creazione dell'Internazionale Comunista 1919, viene fondata a Mosca. Ricordo che Rosa Luxemburg con grande preveggenza aveva detto: attenzione, non è il momento di creare un internazionale da Mosca, perché il partito bolscevico in questa internazionale avrebbe un peso eccessivo, come effettivamente poi si rivelerà. E poi abbiamo nel 20 il secondo congresso dell'internazionale, le famose 21 condizioni, no, che porta poi alla scissione dei partiti. Allora arriviamo a Livorno 1921. Ecco, questo è un momento importante quindi nella politica italiana, e per Verdaro e per questa ala, no, che fa capo a Verdaro e a Bordiga. Sì, che in seguito sono sorte varie polemiche sulla crisi, sulla scissione di Livorno. Qualcuno l'avrebbe voluta più a sinistra, prima e più a sinistra, qualcuno in seguito la vide come una iattura del movimento operaio italiano. Di fatto questa scissione era inevitabile, non fu una forzatura, soprattutto come avvenne in Italia, dove ci fu un lavoro di preparazione assai lungo e complesso da parte di Bordiga, del gruppo di Bordiga, che fece alcune concessioni come l'astensionismo per giungere alla formazione di un gruppo omogeneo. a Livorno effettivamente c'è un partito che per il 90% è omogeneo. Il mutamento di rotta avviene poi nel 23 quando Mosca, e qui giusto la preveggenza di Rosa Luxemburg, purtroppo non c'era più, Mosca impone un altro gruppo dirigente al Partito Italiano, che fu una forzatura che ebbe delle conseguenze deleterie, perché era un partito che si era formato con un indirizzo molto preciso, che l'aveva maturato nel corso di 2 o 3 anni di incontri, di riunioni, ma soprattutto l'aveva maturato durante la guerra, nell'opposizione alla guerra, sopportando quella che era la tragedia delle tragedie, la guerra mondiale. Questo gruppo di dirigente del Partito Comunista si forma in queste circostanze e viene snaturato nel 23. Nel 23 però, ritornando a Verdaro e a Mosca, perché nella prima metà del 21 gli viene dato il foglio di via in quanto cittadino svizzero, viene espulso dall'Italia. Lui non va in Svizzera, va per un certo periodo in Austria e poi va a Mosca. A Mosca ha degli incarichi per norma statutaria, i comunisti di sezioni nazionali, Italia, Francia e così via, quando andavano in un altro paese si iscrivevano al Partito Comunista di quel paese, quindi entra nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica e ha degli incarichi piuttosto delicati, di cui, ecco, purtroppo qui un'altra cosa che è scomparsa, magari con buona volontà si potrebbero trovare gli archivi di Mosca, gli archivi della GPU, tutti i materiali di Verdaro. Verdaro, tra l'altro, in questo periodo fa un grandioso studio sulla storia del movimento operaio internazionale, quando nel 1931 riesce a lasciare l'Unione Sovietica, questo materiale gli viene bloccato dalle autorità sovietiche. Lui cerca di recuperarlo, non ci riesce. E poi fa un compito di analista, probabilmente studiando la situazione internazionale. Questo non lo sappiamo, sarebbe interessante metterci le mani. Ecco, dopo Livorno, no? Livorno abbiamo detto questo partito molto, molto omogeneo, eccetera. Se guardiamo però altri partiti, hanno avuto una spaccatura molto più a destra. Se prendiamo quello francese, sì, praticamente tutto il partito, no? Salvo una piccola minoranza, confluisce nella, sì, nel Partito Comunista francese, no? Mentre invece a Livorno la corrente massimalista di Serrati, no? Che è quella maggioritaria, sceglie di rimanere con i riformisti, e poi Serrati e alcuni altri sceglieranno poi più tardi di aderire, ma questa volta individualmente al Partito Comunista, no? Ecco, quindi ci sono comunque il partito francese è un partito di massa a questo momento, no? Contrariamente a quello italiano, che invece è molto più omogeneo, ma anche molto più piccolo, quindi rivoluzionario. Molto più piccolo, sì, direi leggermente, perché la scissione di Tours del Partito Socialista Francese, abbiamo un grosso afflusso di militanti nel nuovo partito, il Partito Comunista, ma nel giro di breve tempo il Partito Comunista si svuota, viene dilaniato da contrasti interni. In Francia, se ben ricordo, c'è un cambio di segretario all'anno. Sì. Cambiando il segretario, esatto, ogni anno vuol dire che ci sono linee diverse che si incontrano, si scontrano. Ci sono 5 o 6 correnti. Sì, sì, sì. Facendo il confronto tra il partito italiano, come giustamente dici, il partito italiano è frutto di un lavoro di preparazione che invece non c'è nel partito francese, che si lascia muovere un po' dall'entusiasmo, tutti entrano nel partito, poi molti, anzi in Francia era nato ancora prima un partito comunista francese che era fatto tra l'altro da anarco-sindacalisti, una cosa del tutto estemporanea. Altri partiti, il Partito Comunista Tedesco è un grande partito che nasce... È il primo partito che nasce. È il primo partito che nasce 30-31 dicembre 1918. Di due giganti, di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, che vengono ammazzati poco dopo. 15 giorni dopo, sì. È un partito che poi, cioè è un partito, quello tedesco, che secondo me si pone antagonista del partito bolscevico. Subisce, a causa dei contrasti con i russi, subisce una scissione a sinistra e via via nel partito comunista ufficiale subentrano quelle lotte di tendenza disgraziate che sono frutto dei chiariscuri di Mosca negli anni seguenti, 22-23, fino alla stalinizzazione del partito verso la fine degli anni 20. C'è poi diciamo anche la repressione del Partito Comunista, no? Tu hai citato l'assassinio di Luxemburg, quindi cioè è un partito decapitato dalle sue teste migliori, sì. Insomma, è un partito che nasce inizialmente, ecco, forse non è mancata anche l'unione con i socialisti indipendenti, no? in questa fase, poi tenterà più volte di fare la rivoluzione fino all'ottobre, sì. 23 e fallisce un'ultima volta, ecco. Cioè, però c'erano anche in Germania fior di dirigenti, non conosciuti, in Italia sono figure poco conosciute come Korsch, gli olandesi, Pannekoek, Gorter. E, però qui apriamo un altro capitolo. Sì, sì, sì. No, era semplicemente un po' fare dei confronti, vedere insomma dopo questa guerra ci sono c'è una scissione nel movimento socialista, era un po' per tornare al discorso, come dire, del partito di Livorno, che è un punto di riferimento comunque sempre per Verdaro, no? Per Verdaro, cioè, sì. Per Verdaro resta sempre un po' il vero partito comunista, no? Una buona parte dei militanti. Esatto. Buona parte perché... Perché poi con Lione cambia, no? Con Lione infatti si parla di un nuovo partito, cioè la nascita di un nuovo partito. E buona parte dei militanti italiani si riconoscono invece nella linea di Bordiga, la linea del 21. Sono in Italia, devono affrontare la repressione fascista, sono costretti all'esilio, a condizioni di vita estremamente dure, ciò nonostante in Francia riescono a costituire un gruppo, in Francia, Belgio, anche negli Stati Uniti, abbastanza numeroso, cioè soprattutto un gruppo che riesce a pubblicare con regolarità un quindicinale e poi un bimensile. Bimensile è Bilan. Bilan, il nome Bilan per me è legato a Verdaro. Verdaro nel 31 lascia avventurosamente, come al solito, come c'era entrato avventurosamente lascia l'Unione Sovietica, si trasferisce a Parigi, prende contatti con alcuni esponenti della frazione sinistra del Partito Comunista d'Italia, anzi in precedenza Verdaro con altri avevano costituito la frazione di sinistra del Partito Comunista Bolscevico. Appena li hanno scoperti, li hanno espulsi dal partito, quindi situazione estremamente difficile, hanno dovuto ritrattare, hanno dovuto poi fare i salti mortali per poter essere reintegrati. Era un gruppo di 3-4 persone. Alcuni erano agenti del KGB, tra l'altro, quindi erano in posizione anche molto delicata. E Verdaro ritorno, viene in Francia, viene espulso dalla Francia, trova ospitalità in Belgio, dove c'era Autorino Perrone, che era l'esponente della sinistra comunista, che aveva laureato in economia e commercio, e avevo una posizione abbastanza buona nell'amministrazione di una cooperativa. Verdano invece non trova lavoro e viene incaricato di occuparsi dell'attività della frazione e soprattutto di Bilan, che è una rivista che viene pubblicata ogni 2 mesi dal 33 fino al 38 con regolarità, dove vengo in francese, mentre invece l'altro foglio quindicinale Prometeo era in italiano, e è una rivista dove sono affrontate le grandi questioni di quel periodo. È una miniera di informazioni. Buona parte degli articoli sono di Verdaro e probabilmente anche una serie di piccole note, di articoletti, di rassegne stampa. E solo questo fatto che io avevo visto molti anni fa sfogliando Bilan mi aveva un po' colpito, sapere chi era questo gatto mammone, cosa diavolo faceva. Perché recentemente ho pubblicato in occasione di questo libro 2 articoli di Verdaro, uno sulla Repubblica Sovietica Cinese del 1934, argomento di cui c'è una bibliografia scarsissima in Italia, l'altro sugli scioperi in Palestina del 1936, e sono restato stupito dalla precisione delle informazioni. Questi scritti non vengono dati, non ci sono note, non vengono date fonti. Facendo delle ricerche sulle fonti oggi disponibili, ho dovuto vedere che le informazioni, le fonti, i dati forniti da Verdaro sono giusti. Solo che probabilmente aveva la possibilità di frequentare biblioteche ben documentate, e tra l'altro allora l'usanza, la consuetudine di documentare i propri scritti come oggi si usa, anzi eccessivamente, non c'era. Cioè molti storici non documentavano tutti i dati che fornivano. Tra l'altro Verdaro scrive su una rivista e quindi ancor meno c'era questa consuetudine. Ecco, diciamo che in questo periodo i militanti di questa area, diciamo, estrema sono comunque dal punto di vista numerico abbastanza piccoli e anche divisi, no? Ideologicamente. Ci sono diverse formazioni che si richiamano genericamente alla sinistra, no? O a Trotsky o a Bordiga, eccetera. Ecco, com'è la situazione di queste forze? Il panorama è abbastanza variegato. Cioè, ecco, infatti le mie ricerche sono tese anche a cercare di capire come quello che succede in quel periodo. I fatti di quel periodo sono tragici, sono repentini, per cui il militante spesso ha difficoltà a districarsi in questo mondo estremamente dinamico e complesso. Il militante, il più delle volte, è un operaio che deve fare i conti con la propria realtà, quindi andare a capire quello che succede a Mosca, perché Trotsky litiga con Stalin, con Bukharin, sono delle cose spesso distanti dalla quotidianità del militante operaio. Ciò nonostante, queste tematiche vengono seguite almeno da una minoranza consistente di proletari. Il fascino di Trotsky, soprattutto in Francia, dove c'è il maggior nucleo di oppositori, in Francia perché è il paese che dà maggiori garanzie agli esuli, quindi italiani prima, tedeschi poi, via via ungheresi, slovacchi, tutti i profughi di paesi che sono caduti sotto regimi fascisti o autoritari. In Francia è forte il fascino di Trotsky e c'è una forte componente di opposizione che si richiama Trotsky, con cui i cosiddetti borghesisti italiani si confrontano. Accanto a questi due filoni importanti ce n'è un terzo, assolutamente minoritario in Italia e in Francia, a cui mi sono dedicato, che era il piccolo gruppo di Pappalardi, che invece si richiama ai tedeschi, stabilisce rapporti con Korsch. Korsch, insieme a Lukács, fu uno dei maggiori critici marxisti del 20-21, mentre Lukács poi si adeguò alla linea generale di Stalin. Korsch invece sviluppò delle critiche piuttosto profonde, si distaccò poi dal marxismo, ma si mantenne sempre con un orientamento rivoluzionario. Quindi abbiamo un quadro molto dinamico, molto variegato, in quanto quello che è la frana della rivoluzione russa avanza come un rullo compressore. Una serie di episodi internazionali che vanno da uno sciopero in Inghilterra mal gestito dall'Internazionale Comunista, alla politica cinese di apertura al Kuomintang, al fronte nazionalista, che portò al massacro dei comunisti cinesi, per cui i rivoluzionari sono costretti a inseguire continuamente questi fatti. I borghesisti, il gruppo della frazione di Bilan, cerca dei momenti di aggregazione. Loro sarebbero vicini ai trotskisti, sarebbero anche disponibili ad aprire un confronto con i trotskisti, però Trotsky in questa fase qui assume un atteggiamento estremamente rigido, in quanto si appoggia su un piccolo nucleo uscito dal Partito Comunista Italiano che sposa le tesi trotskiste. Il piccolo nucleo era quello costituito da Tresso, Ravazzoli, Leonetti, che erano tutti membri del Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia. Piccolo gruppo, perché di lì a poco si divide. Comunque Trotsky punta le sue carte su questo, pone delle condizioni capestro alla frazione che non le accetta. La frazione sarebbe vicina ad altri gruppi. Adesso sembra una questione di lana caprina, però bisognerebbe mettersi anche nei panni di questi militanti che allora affrontavano queste questioni. Altri gruppi che sono abbastanza vicini alla frazione su certe questioni, sulla critica del fronte unito con la socialdemocrazia, che la frazione non accetta, però hanno una posizione più radicale sull'Unione Sovietica. Ci sono molti gruppi di sinistra che giudicano l'Unione Sovietica un paese capitalista. La frazione, i borghesisti, sono invece molto cauti, non hanno ancora le idee chiare su quello che succede in Russia, per cui non accettano la tesi di Trotsky di stato operaio degenerato, sono in mezzo al guado. Quindi è un coacervo di posizioni che si incrociano. Alcuni della frazione escono perché dicono: no, la Russia non ha più nulla a che vedere col proletariato. Si aprono confronti con gli olandesi, dove le posizioni sono più radicali, con i belgi, cioè c'è tutto questo lavorio in un certo contesto. Momento di divisione: la Spagna. La guerra di Spagna. Magari forse prima della Spagna abbiamo accennato un momentino al rapporto, questo abbiamo visto all'interno del movimento comunista, ma i rapporti, ecco, con le socialdemocrazie, no? In particolare questo gruppo, no? Di Verdaro, eccetera, mi sembra che il rapporto con i socialisti è un rapporto molto conflittuale. È un rapporto conflittuale, non c'è rapporto. Non c'è rapporto perché di fatto il rapporto è stato troncato nel 1921 con la fondazione del Partito Comunista d'Italia, ed è stato troncato doppiamente in occasione del terzo congresso internazionale, quando Lenin, l'Internazionale, avanza le tesi del fronte unico con la con la socialdemocrazia. I comunisti italiani non accettano queste tesi, perché dicono: noi abbiamo appena rotto con i socialisti e non andiamo a siamo disposti al fronte unico dal basso, al fronte unico di lotta sul piano sindacale e sul piano della lotta al fascismo, non al fronte unico politico. Quindi i rapporti con la socialdemocrazia non ci sono. Ci sono rapporti con alcune correnti della sinistra socialista, con la Balabano, però anche lì molto, molto cauti, e basta. Cioè non... rapporti con ambienti anarchici molto critici. E poi c'è un'altra questione che complica ancora di più il quadro, in quanto sono militanti del Partito Comunista e il loro referente resta sempre il Partito Comunista di cui fanno parte. Chiariscono, si scioglie questo nodo nel 1934-35, quando l'Unione Sovietica entra nella Società delle Nazioni. E allora, per iniziativa di Verdaro e di altri due compagni, viene deciso di cambiare il nome, non più Frazione di Sinistra del Partito Comunista d'Italia, ma Frazione della Sinistra Comunista. Quindi viene rotto e cercarono di allargare la propria cerchia di interesse e consenso. Guerra di Spagna, si apre un capitolo estremamente delicato che porta a una scissione interna dei comunisti italiani, della frazione di sinistra. Tutti sono d'accordo nel dire che in Spagna non c'è un partito rivoluzionario, però una parte dice: non c'è un partito rivoluzionario, quindi non c'è possibilità di sbocco rivoluzionario. L'altra parte dice: non c'è il partito rivoluzionario, dobbiamo contribuire alla formazione del partito rivoluzionario in Spagna, andiamo in Spagna. Tra l'altro, questa cosa spiritosa, questa polemica è tra Gatto Mammone, che esprime una corrente, e l'altro invece è Topo, che esprime l'altra posizione di intervento in Spagna. Piccole cose, ma estremamente significative, perché il gruppo di comunisti italiani è tra i primi a varcare la frontiera e partecipare ai combattimenti nell'agosto del 36 sul fronte dell'Ebro. A capo di questo manipolo, di questo gruppo armato, c'è Enrico Russo. E adesso faccio una parentesi, perché i bordighisti sono sempre stati accusati di essere assenteisti, di non partecipare alle lotte. Recentemente è uscito un libro dedicato a Enrico Russo che ha il titolo Il Che Guevara italiano. Quindi questo dimostra che era tutt'altro che assenteisti. Però si conclude in fretta questa. Si conclude in fretta, cioè prima cosa erano nuclei molto ridotti, parliamo di decine di persone. I partiti comunisti ufficiali intervengono molto più tardi, perché l'Internazionale Comunista è estremamente cauta sui fatti di Spagna, interviene quando ritiene che sia conveniente intervenire. E arriviamo all'ottobre, cioè nel luglio c'è il tentativo di colpo di Stato dei franchisti, che suscita una ribellione che va oltre la difesa antifascista, ma assume dei significati sociali molto ampi, soprattutto grazie agli anarchici, una parte degli anarchici. In Spagna c'è il Partito Operaio di Unificazione Marxista, che è su posizioni antistaliniste, non trotskiste, però antistaliniste su certe questioni, soprattutto in Catalogna. Qui c'è un processo sociale piuttosto radicale, processo di lotta sociale. Nel novembre, con l'intervento dell'Unione Sovietica in Spagna, viene dichiarato, il governo promuove la militarizzazione delle milizie, mentre invece le milizie prima erano dei volontari politici, vengono inquadrati militarmente. Tutti i sinistri, buona parte anche degli anarchici, rifiutano la militarizzazione. Molti restano in Spagna, partecipano all'attività politica, partecipano anche ad attività pratiche e assistenziali nei servizi sanitari, anche dato che c'erano fior di operai metalmeccanici tra i compagni della sinistra, nell'industria bellica. Fino alla disgraziata giornata del maggio del 37, quando a Barcellona i nazionalcomunisti stroncano l'opposizione anarchica e marxista. Dopodiché alcuni sopravvivono, alcuni finiscono nelle galere. Il gruppo di Verdaro invece ridotto però acquisisce alcuni transfughi di altri gruppi che ne condividono l'orientamento politico sulla Spagna. È chiaro che col senno di poi si dice sì, in Spagna è finita male, per cui molti, però la partita secondo me era da giocare e fecero bene i compagni che andarono in Spagna. Tornando a Verdaro è uno degli esponenti della frazione che maggiormente si dedica alla Spagna e fornisce delle analisi anche sulla Spagna estremamente interessanti. Sono state pubblicate in francese, tranne poche cose tradotte. È interessante appunto l'analisi. L'analisi, no, è molto interessante anche quella. La situazione economica, sociale, no, della Spagna. Ecco, perché sulla Spagna c'era due tesi che si scontravano. Una tesi di Stalin, che in parte è condivisa anche da Trotsky, ossia che la Spagna è un paese arretrato e quindi in Spagna c'era da fare una rivoluzione democratico-borghese. Quindi prima contro il fascismo e poi, se va bene, faremmo la rivoluzione socialista. Da parte di Stalin era carte false, perché intendeva solo stroncare questo tentativo rivoluzionario che avrebbe scompaginato il quadro diplomatico in cui l'Unione Sovietica a fatica si stava inserendo. I Trotsky, secondo me, era un errore di prospettiva, perché seguendo le analisi di Verdaro, ma anche di altri, la Spagna era un paese capitalista, paese che ha avuto delle vicende particolari, come tutti i paesi ne hanno avute, però tra la fine dell'Ottocento e soprattutto con la Prima Guerra Mondiale, grazie alla neutralità, aveva avuto un grosso decollo industriale. Decollo industriale circondato però da grossissime aree di arretratezza nelle campagne. Però quello che era, cioè il problema era la riforma agraria. Il governo borghese che abbiamo, radical borghese, che manda via la monarchia nel 31-32, non è in grado di fare questa riforma agraria e favorisce dopo due anni il ricambio con un governo moderato che si rimangia tutte le riforme del precedente governo democratico di sinistra. Nel 36 abbiamo le elezioni che portano al potere il Fronte Popolare e subito scatena la reazione franchista. La reazione franchista, come dicevo, mette in attività un movimento antifascista con delle grosse valenze sociali rivoluzionarie. E quindi diciamo c'è anche poi l'esperienza degli anarchici che sono estremamente interessanti prendono il potere in alcune zone, eccetera. Poi arriva la guerra, questi movimenti vengono dispersi e Verdaro, quindi 1940, con l'invasione del Belgio, torna in Ticino. Qui si apre una parentesi tragica perché malgrado tutti gli sforzi teorici di questo periodo, la frazione si trovò in un vicolo cieco, cioè non riuscì a capire la gravità della situazione della guerra. Per cui la guerra, il rullo compressore del nazismo, dell'armata tedesca, fu sconvolgente. Perché la linea Maginot crollò come un castello di sabbia. Cioè tutte quelle certezze che c'erano in Europa. Quindi, cioè, ho detto, la frazione ebbe una grossa responsabilità e fece un grosso errore di prospettiva. Però era anche condiviso da molti che pensavano di giungere a compromessi, alla pace, alla fiducia nella linea Maginot, che era una cosa ciclopica, e non prevedevano invece queste manovre estremamente, il Blitzkrieg. Ecco, e quindi Verdaro poi rimane in Ticino ben 17 anni. 17 anni, ecco. Questo qui è una storia anche strana, effettivamente, perché abbiamo questo rivoluzionario che però è dotato anche di senso pratico, cioè non è che arriva in Ticino, scrive a Canevascini, dice, arriva in braghe di tela, perché lui aveva lasciato Bruxelles, era salito su uno degli ultimi treni che varcava le frontiere, arriva qui, scrive a Canevascini e probabilmente lui non poteva starsene a fare l'archivista o quel diavolo che poteva fare qui. Deve fare attività politica. Fa attività politica dove la fa nel Partito Socialista, cioè ormai è una certa età, tranquillo, continua per la sua strada. Parlando di questa svolta, di questo capitolo della storia di Verdun, in quel periodo lì furono molti che dovettero adattarsi, perché si trovavano sperduti in giro per l'Europa. Non avevano più il faro della rivoluzione, non avevano più, per cui fecero delle scelte, alcune discutibili, altre meno. Ecco. Comunque lui cioè, disse sempre di coerenza, perché furono sempre sulla breccia politica. Non, comunque non... Lui si disse sempre un comunista. Sì, sì, sì. Cioè... Questa era la sua posizione e diciamo ecco quando il Partito Socialista, no, durante la Guerra Fredda assume un orientamento nettamente anticomunista, Verdaro ancora una volta si oppone, no? Così come si oppone all'intesa di sinistra, no? Tra liberali e socialisti. No? Sì. Quindi, pur essendo amico di Canevascini, cioè c'è la foto bellissima. Esatto. Magari torniamo un momento, no? in conclusione un po' di questo percorso, no? Alla figura della compagna e poi moglie, no? Che abbiamo accennato, ha avuto quindi un percorso estremamente difficile. Ecco, cioè, allora... Molto difficile, infatti io prima dicevo che queste idee rivoluzionarie camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. In Italia la presenza femminile fu sempre estremamente ridotta. Nel Partito Comunista d'Italia, che aveva in origine 50.000, ma l'anno dopo era 40.000 iscritti, le donne erano 400, quindi l'1%. Ci sono però molte donne che non appaiono in prima fila, però hanno dei ruoli importanti, cioè... Infatti, ricostruendo la vicenda umana di Emilia Mariottini, che era molto più giovane di Virgilio, aveva 15 anni meno, nel 1900. È una persona estremamente fine intellettualmente, c'è uno scambio di lettere cui affronta con altri delle questioni. Qui, anche se non ha scritto i libri di Virgilio, anche se non ha avuto un ruolo dirigente, è una persona che nel Partito Socialista da giovane, nel Partito Comunista d'Italia, quando anche lei aderì nel 21, e poi quando raggiunse Virgilio in Russia, svolse, infatti era in contatto con persone importanti come Bukharin, che era segretario dell'Internazionale. E queste lettere sono queste lettere che sono quelle raccolte dalla polizia e conservate all'archivio di Stato. Le lettere venivano prese, trascritte, poi consegnate al destinatario. E a un certo momento c'è anche una simulazione, perché lei deve simulare una rottura con questo amante, perché viene definito, non essendo sposati, sia la polizia ma anche gli stalinisti chiamano Virgilio l'amante, e poi verrà invece il ricongiungimento dopo molti anni. Quindi c'è questa vicenda tragica ma estremamente struggente. Ecco, come si spiega questo quasi miracolo che nel 1937 lei possa ancora tornare in Italia? Perché Verdaro è scappato nel 1931, perché la situazione si faceva molto difficile. Sappiamo di altri che sono rimasti nella seconda metà degli anni 30 come oppositori e poi sono finiti. Nei gulag, sono stati fucilati, eccetera, eccetera. Lei, malgrado tutto, è riuscita, no, a... Ecco, forse ci racconti un po' come mai, qual è l'ipotesi. Lei riesce facendo i salti mortali. Quindi ho titolato questo capitolo La dissimulazione onesta, dove lei riesce ad avere contatti con l'ambasciata italiana. Quindi l'ambasciata italiana le dà il passaporto e lei, contemporaneamente c'è una campagna fatta in Francia dagli organi della frazione, fatta da Verdaro, che costantemente polemizza con gli stalinisti, con il Partito Comunista Italiano, con i suoi esponenti, riguardo alla situazione di Emilia Mariottini. E in quel periodo, tra l'altro, muore Gramsci, e Mussolini, cioè sul Popolo d'Italia appare un articolo anonimo, ma quasi di sicuro di Mussolini, che dice Antonio Gramsci, comunista, dirigente del Partito Comunista, è morto in una clinica, servito, accudito, assistito, mentre in Russia non si sa che fine ha fatto Emilia Mariottini. Anche questo fatto qui può aver mosso le acque e consente l'espatrio di Emilia Mariottini, che quando viene in Italia però viene subito interrogata dai questurini, e a differenza di altri che dicevano che Russia era un inferno, che Russia tutto il male, lei parla bene della Russia. Per cui crea un disorientamento nei questurini, che non riescono a inquadrare questa figura. Cioè, giocando su questi equivoci, riesce a districarsi, a trovare un lavoro. E ovviamente queste manovre si pagano con l'isolamento completo. C'è la sua corrispondenza con un amico conosciuto in Russia, Spina, ribelle Spina, veneziano. Anche questa è una vicenda interessante. C'è una tesi di una studentessa, di una laureata di Firenze, dedicata a Spina, che si chiama Ribelle Spina. Però a un certo momento il fascismo dice no, Ribelle non è un bel nome, e gli dà un altro nome, non mi ricordo adesso. E c'è uno scambio di corrispondenza dove anche lì dicono, non dicono, sono... Siamo sempre sul borderline, molto sfumate certe cose. Per la gente che era vissuta in Russia aveva capito come doveva comportarsi, cioè, prima in Italia col fascismo, poi in Russia, dove il Grande Fratello era incombente, quindi si erano Ecco, poi l'ha sposata negli anni 50, quindi in tarda età, divorziato. Raccontava appunto il matrimonio su un prato già anni prima. Ci sono alcuni aspetti che sono ancora abbastanza interessanti. Prima si diceva, per esempio, che dal 21 lui è stato espulso dall'Italia, no? In quanto cittadino svizzero, sì. Aveva fatto dei comizi, eccetera. E poi si sa che in quel periodo è stato in Austria. Però ecco, ci sono ancora parecchie cose che non sono conosciute. Del resto parli a un certo punto... ci sono molte lacune da colmare, no? Quindi volevo un po' chiederti com'è stata la tua ricerca sulle fonti, quali fonti hai trovato, quali fonti mancano, quali fonti sono affidabili, quali La fonte principale è il vostro libro, devo dire. Ma direi che per la parte, sulla parte del, ecco, diciamo, la seconda sulla, fonte... le fonti per il Ticino, quello d'accordo, no? Sono fonti abbastanza... la parte iniziale. Altre fonti, la stampa, gli articoli, numerosissimi articoli di stampa, alcuni pochi studi che sono stati fatti sulla frazione in Francia in quel periodo, che ovviamente parlano di Verdaro perché lui, Perrone, Bibbi, Enrico Russo, Leone, De Leone, sì, il topo, De Leone è uscito un libro dove sono riportate delle lettere Verdaro, De Leone, Ambrogi, Silvio Ambrogi, e quindi si intreccia, la vicenda di Verdaro si intreccia con quella di questi esponenti a cui sono stati dedicati dei libri. E i documenti di polizia? Documenti di polizia non ne ho trovati. All'archivio di Stato italiano non c'è un dossier. Avrei dovuto andare a Berna, non... Ecco, un'ultima cosa... C'è tutto il dossier di Emilia Mariottini, quello è stato molto... dove anche lì si intreccia la vicenda, quindi anche lì qualche... Ecco, dopo il suo rientro a Firenze si sa ancora di attività politica che ha svolto? No, c'è questo scambio di lettere tra lei e Ribelle Spine. E però diciamo di attività politica era controllata, quindi non lei fino al 40 è controllata, poi con la guerra probabilmente subentrano altri problemi e l'attenzione della polizia si sposta su altre persone. Un ultimo tema che volevo così affrontare con te è un po' quello dei protagonisti, no? Tu in una delle tue appendici hai così ricostruito, no, la biografia di una sessantina, se non sbaglio. Sì, li ho contati, i profili di quasi 60 militanti, tutti della sinistra comunista, no? Abbiamo sentito alcuni nomi stasera. Sì, sì. E che però sono poco conosciuti in generale, no? Ecco, e sono tutti nomi, no, che dicevi, e lo diceva anche Leo Vagliani quando era uscito il famoso dizionario biografico coi del buchi. Movimento... Dizionario coi buchi. Ecco, il dizionario coi buchi, no? Con delle omissioni o con delle, sì, sì. O con delle dimenticanze, ecco. E quindi... Come sei riuscito a ricostruire, ecco, i profili di tutti questi personaggi, vista la mancanza di informazioni e proprio l'impossibilità di far capo, diciamo, a degli strumenti come questi? Un po' di lavoro è stato fatto in questi anni. Cioè, io cito Arturo Perigalli, Paolo Casciola, Bucci, Alessandro Pelegatta hanno fatto dei bei lavori settoriali che mi ha consentito, perché io, la mia ambizione è quella di fare il dizionario di Soversini, detto in modo esplicito, e ho raccolto circa 200 nomi, in base a quel concetto che le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne. Molti sono militanti che per un certo periodo hanno fatto attività politica, non hanno scritto, non hanno diretto, cioè, però è testimoniato una loro attività. È un lavoro fatto sfogliando i giornali. Sempre all'archivio di Stato ci sono i dossier. Io indico il nome, il numero della cartella del dossier. Ci sarebbe da andare a Roma a passare qualche anno e sfogliare tutti questi dossier, cosa che io purtroppo non sono in grado di fare e non ho voglia di fare, ecco. Però cerco di fornire tutti quegli elementi che chi vuole approfondire ha indicata una strada. Ecco, di questi profili comunque la gran parte sono di estrazione operaia, quindi Verdaro è uno dei pochi, che ha la maggior parte. Sono il Partito Comunista d'Italia lamentava o vantava l'assenza di intellettuali. C'è sul resoconto del secondo congresso di Roma, vengono censiti gli avvocati, i professori, gli ingegneri, insomma, gli intellettuali cosiddetti sono pochissimi, sono una percentuale ridicola rispetto al numero degli iscritti. E comunque avevano una formazione politica solida ed erano anche però molti di questi culturale. Però poi dicevamo molti di questi sono poi finiti nei gulag, sono stati fucilati e quelli che erano in Russia evidentemente in Russia, che non sono riusciti a partire prima. Erano tanti, però sì, erano tanti, perché negli anni 50 uscì quel volumetto pionieristico di Guelfo Zaccaria, 200 comunisti italiani uccisi in Russia. Adesso è uscito, hanno fatto delle ricerche molto più approfondite, sono molto più di 200. Io cito il volume pubblicato dalla Feltrinelli, poi c'è un sito dove si trovano tutti i profili con molte fotografie dello schedario di polizia dei comunisti o anarchici, tra l'altro anarchici, spariti in Russia. Io ne ricordo almeno uno svizzero famoso, non so se l'hai già sentito nominare, Fritz Platten. Era dirigente del partito. Che è stato era amico di Lenin, l'ha anche salvato in un attentato nel 1918, sì. È stato il fondatore del Partito Comunista Svizzero, e è stato fucilato nel 1942. E qui avevo un ritaglio del Lavoratore dell'89, all'epoca della perestroica, in cui si diceva che non era morto di una malattia di cuore, ma era stato appunto fucilato. E Fritz Platten ha l'onore anche di trovare la sua biografia nel dizionario storico svizzero, così come Virgilio Verdaro, no? Che io ho guardato questa enciclopedia della sinistra europea al XX secolo, qui non è ancora citato. Non credo che non c'è, non è. Questo di che anno è? Scusa. Ma è di Aldo Agosti, non è piuttosto recente, del 2000. Quindi non è citato, ma ecco sul. Dicevo prima sul dizionario storico svizzero, e tu non lo sapevi, no, perché è stato, ti raccontavo prima l'aneddoto, è stato un caso del tutto particolare quando all'inizio degli anni 90 Raffaello Ceschi ci convocò, alcuni storici della Fondazione Pellegrini Canevascini, e ci chiese quali personaggi avrebbero meritato di figurare nel dizionario storico svizzero. Avevamo fatto tutta una serie di proposte, tra cui Virgilio Verdaro. Io scrissi quell'articolo, quindi al 92, 20 anni fa, e il mese di settembre, visto che il dizionario, adesso siamo all'undicesimo volume, siamo verso la V, per fortuna che si chiamava Verdaro, e quindi ho corretto il mese di settembre, ho dato l'ok all'ultima stesura della biografia, e la settimana successiva mi veniva comunicato che era in stampa il tuo libro, ecco. Quindi è una biografia evidentemente corta, di quelle minimi, ma sì, comunque sì, cioè, 15 righe, viene ricordato, ecco, e sarà quindi citato anche il tuo testo. Ecco, io non so, credo che adesso è già un'ora. Che ore sono, scusa? 10:10. No, perché io poi devo scappare. Non so se chiediamo al pubblico se vuole intervenire, ecco, se... No, guarda, scusi, io vorrei sapere, quando si è citato Buordia, che ha fatto il Partito Comunista Italiano, però erano fatti a Terezzi, era Terracini e Granfi, di cui... Fortichiari, Reposti... Si è sempre salvato perché sapevo mi Togliani, che si fa un po' voli, tutte le cose che arrivavano. Questo me l'avevo detto in caso, quando ho portato fuori la pelle Terracini, perché era così. E quelli erano degli intellettuali. Sì. Beh, però c'era Repossi, che era operaio, che era responsabile sindacale, era operaio. Leonetti, non so, credo che no, Leonetti era laureato, lui era laureato, mi sembra. Fortichiari aveva fatto le scuole, ma... Le scuole, sì. Scuole tecniche, non era... Terracini era avvocato. Sì, Terracini, sì, appunto, era più intellettuale Terracini. Però dopo sua volta vuol dire che è stato anche messo anche la Trozzi, che era stato. Sì. È stato anche espulso dal partito, sì, nel 1930. Nel 30. Prima si è parlato invece di, appunto, della guerra di Spagna come spartiacque del ruolo degli anarchici. Dice qualcosa di più Verdaro rispetto al movimento anarchico, soprattutto dopo di Barcellona, che posizioni ha? È una posizione che è di solidarietà con gli anarchici, però voglio dire che Verdaro è un bolscevico, per cui è estremamente severo con gli anarchici. Infatti, quando lui arriva qui in Canton Ticino nel 40, l'anno dopo scrive un articolo su Libera Stampa commemorando l'assassinio di Trotsky, e critica Trotsky perché non aveva sposato in pieno le tesi bolscevicche leniniste. Cioè, Verdaro è un bolscevico, cioè, quindi tutta la sua vita, lui, per quanto sia critico dell'Unione Sovietica, lo fa da un punto di vista da vecchio bolscevico. Cioè, queste qui sono anche quelle contraddizioni che mi hanno spinto sempre ad approfondire queste ricerche, perché porca miseria, cioè, a un certo momento fai una critica anche al leninismo, cioè altri fecero una critica al leninismo, no, lui invece è rigorosamente fermo sulle posizioni bolscevicche, quelle sostenute da Lenin alla fine degli anni 10, nel cavallo degli anni 20. Che fare, e con la Spagna quindi sono estremamente severi con gli anarchici, non c'è alcun cedimento. Cioè, infatti, quando altri parlano di armamento degli operai, loro Verdaro controbatte e dice: no, non basta, occorre che ci sia un partito che dirige, e sempre su questa linea qui. E anche con il PUM è piuttosto critico, no? Con il PUM è molto critico. Quindi veramente non c'è un partito che, che gli possa... No, infatti invece... Cioè, che possa rappresentare questa avanguardia, no? No, invece gli altri, il gatto, il topo, invece vanno a Barcellona, c'è un gruppo, Enrico Russo è responsabile, comandante della colonna Leni del PUM, l'altro c'è Bernardino Fienga, che è medico, diventa medico del PUM, sono legati al PUM come altri, in posizione critica. Posizione critica, però la cosa poi si conclude molto presto, perché poi con la militarizzazione delle milizie nel novembre del... poi il De Leone, il topo, muore d'infarto nel novembre del 36, maggio 37 c'è la repressione, quindi i rapporti restano estremamente sotterranei e sporadici. Ciò non toglie che ci siano compagni spagnoli che si spostano poi sulle posizioni della sinistra italiana. Masò tra questi, e altri magari meno noti, però. Ma quando arriva Palermo, che carichi assume il partito? No, Palermo entra nella sezione socialista, no? Perché è stato con Canevo Cigno in Roma. Canevo Cigno vuole dire che se non c'è, bisogna affrettarlo. No? E gli ha dato un posto da attivista a Mezzana, no? Ha fatto guadagnare qualche franco, perché era povero in Canada, come si diceva, come moncentesimo. Potrebbe dire che mangiava tutta la famiglia viva per mangiare. E lui lo scrive bene già la risura lì, e dormiva federale, no? Perché tutti che erano compagni socialisti gli davano una cosa. Perché lui non aveva niente, ma aveva niente, perché tutto ti dico una cosa che può essere una stupidata, che è banale, no? Un suo parente reazionario, dove volevo venire, era un vestito nuovissimo, no? E tutti eravamo, io ho detto, non è mai visto, perché lui era dimesso, non posso. Cosa fai? Beh, ma tre giorni dopo arrivo ancora con le toppe di pantalone, di cosa ne hai fatto? Ci ho dato uno più fuori di me. Figurati che ti puoi, era chiaro, no? È tipo tutto particolare, guarda, perché diciamo della sessione di Palermo, lui era amico di quelle 5 persone, parlavo con tutti, no? Allora era amico di mio padre, gli dico con cara che era presidente, se vuoi dalla famiglia Rio, che la mossa vuoi, dei cartini che avevano il ristorante federale, per giù, con quelli era proprio assieme così, però sì, questo caos compagno. Se non c'era lui bisognava affrontare questo tipo, no? Che il padre eterno pensa anche perché aveva il suo carattere particolare. Fece comunque parte al Consiglio Comunale di Balerna dal 1944 alla partenza per Pontassieve, sì. E poi fece parte della commissione direttiva del Partito Socialista Ticinese. Poi quando facevo i discorsi il primo di maggio era bestiale, non avevo WhatsApp, mi ricordo, dalla fuori. Quella storia che avevo, c'era una volontà di canale rotto, da tanto momento il partito canale rotto. E lui manco si accorgeva, tanto era nella foga di raccontare le cose lì. E anche il Consiglio Comunale di Palermo, quando era presidente, era l'unico che scendeva dallo scranno, mettevo la sedia davanti e davanti con le sue figlie, con i liberali, li tartassava al 100%, li tartassava. Tutto il suo carattere particolare. C'è comunque un bel ricordo di Verdaro al momento della morte, no? Il presidente del Consiglio Comunale fa un discorso. Ah sì, io poi c'è un posto a San Giacomo. San Giacomo, sì. Esatto. Che poi odiavo i socialisti in modo particolare, ma senza ma con Verdaro ha dovuto ammettere una persona che lo stimava. E io con San Giacomo eravamo coetanei, qualche volta l'ho fatta. Magari... Prima della morte erano diventati amici con San Giacomo, dopo dicevo. Lo possiamo leggere perché è interessante. Era la personalità dell'idealista, dell'uomo si potrebbe dire astratto, staccato dalle cose terrene, alle quali lo riallacciavano l'inclinazione per una creatura di natura, i mici, ed anche la passione per una creazione dell'uomo, i francobolli. La sua mente era portata a spaziare negli strati superiori dell'atmosfera intellettuale. Il suo modo trascurato di vestire, la poca importanza che prestava alle comodità e agli agi del vivere quotidiano ne era palese prova. I problemi pratici non lo interessavano se non in quanto in essi non vi scorgesse un nesso ed un motivo per elevarsi a speculazioni dottrinarie, ideologiche, filosofiche. Eppure nella sua quasi assenza dalle cose terrene, nella sua astrattezza lasciava palesare sentimento e cuori pieni d'umanità. A lui si addicevano indubbiamente più larghi orizzonti, più ampie e solenni aule, più importanti sedi, e tuttavia ben si adattò al pur modesto nostro Parlamento, conscio che in qualsiasi sede si può e si deve agire con impegno nella consapevolezza di tendere al raggiungimento del bene della comunità attraverso le proprie idee e tesi. Trovavo che fosse con delle pennellate una bella... Il movimento moderno che segue che si fa, con gli orizzonti. Rolli? No, straordinario, un giorno mettere le mani su quelle storie del movimento operaio che seppellite magari in qualche archivio, chissà, eh. Tu una volta eri stato, Bruce Scopo aveva incontrato sul treno, mi sembra, nel giornale, sì. E gli è andato a associare la FIFA Zurigo, stava lavorando sulla storia del movimento operaio turco. Sì, sì, no, quello l'ho riportato, l'avevate messo. Qui, il tuo materiale, se non si sa dove sia, così. Questo è interessante che dopo la guerra Verdano ha tenuto dei rapporti con Bottiga, con il Bottigista, eccetera. Ma questo aspetto forse? Sì, questo aspetto è... si sa poco. Si sa poco, c'è un articolo pubblicato sulla rivista del Partito Comunista Internazionalista su Prometeo dove parla dell'origine del Partito Comunista d'Italia. Poi c'è il necrologio, quando muore il programma comunista pubblica un necrologio e una lettera di Bordiga a Emilia Mariottini. Quindi non... cioè purtroppo militanti del partito non ci sono più, ecco, purtroppo. Cioè io ho provato a chiedere in giro a Firenze non sanno nulla, anche gente della nostra età, ecco, non sa nulla, conosce il nome ma non... parenti della Mariottini ho cercato anche lì, non sono riuscito a... Io sono con te, perché la Mariottini non avevo parenti, e sì, ma ti sei sposato molto sì, come dicevo prima. Sì, sì. Al fasto l'hanno fatto su un prato, no? Con due salviette e con due rompito fontana, che mi ha detto che avevano ammazzato qua, di, non so se lo sa l'amico, è stato un pasto di nozze per me. E sì, come lo non so se, se ci sono altre domande. Altrimenti non so se chiudiamo qui la serata.